anche perché ci aspetta, credo, un po' d'acqua. Anzitutto grazie di essere qui, grazie a Aldo Bonomi, che dirò due parole di presentazione. Non funziona? No, si sente Sandro, però devi tenere. Ah, devo tenerlo vicino. Devo tenerlo vicino. Grazie. Dicevo, dico due parole di presentazione di Bonomi e poi una breve presentazione del tema. Io mi chiamo Sandro Corti, ho un passato, una storia sociale, anch'io ho fatto il presidente dell'ACRI tanti anni fa, ma credo che sia qui soprattutto per un'altra ragione presentare Bonomi, perché lo conosco da credo 25-27 anni, quando Bonomi sostanzialmente, se non si offende, non era ancora nessuno. Nel senso che adesso, come dire, lo conoscono tutti, scrive, parla, va in televisione, da Lerner, eccetera. Credo che presentando lui si chiariscono anche le ragioni del perché è stato scelto per questa riflessione. Il tema l'avete visto. La ragione sta in un fatto, che Bonomi non è un sociologo specializzato, cioè non è un sociologo del terzo settore, vabbè, forse non è pure un sociologo, comunque del terzo settore o del volontariato o comunque di questo dell'arcipelago che vasto, sempre più vasto, che sta qui in questi due giorni, è quella che qualcuno chiama dell'economia civile. Credo che la definizione migliore di Bonomi l'abbia data tantissimi anni fa ancora il più noto sociologo italiano, che si chiama De Rita, quando nella sua prefazione a un libro, uno dei primi testi di Aldo, che era, disse di Bonomi, dopo aver detto che lo considerava il suo successore, disse che Bonomi è un analista microsociologico della società italiana. E sottolineo perciò fondamentalmente questo micro. Non a caso adesso scrive su Sole 24 Ore una rubrica che è titolata Microcosmi, perché in genere i sociologi fanno le osservazioni di ordine generale, non che manchi questo aspetto, ma comunque il punto di vista da cui parla è sostanzialmente sempre quello, seppur si è occupato di tante cose. Il punto di vista è appunto quello del sociale. Il punto di vista perciò delle trasformazioni sociali che sono avvenute in questo paese, la composizione sociale che si è profondamente modificata, con l'attenzione formidabile al territorio come elemento chiave, il micro in senso lato e l'attenzione anche a quelli che si chiamano un po' i segnali deboli. Segnali deboli perché magari non si vedono, non sono ancora espliciti, non sono ancora forti, appunto lo dice la stessa parola, cogliendone però non tanto in sé quanto in relazione al tutto, ed è forse questa la ragione principale per cui Bonomi è qui. Infatti il tema è l'apporto che può dare il volontariato, e c'è tutto il mondo, non sto più a dirlo perché viene troppo lungo descriverlo sempre, il rapporto a questa società in affanno dal punto di vista socio-economico, ma anche dal punto di vista del senso. Un altro elemento però interessante è quello che nella sua varia attività ha avuto sempre un'attenzione specifica, e mi permetto, non so se lo interpreto male, anche se non mai dichiarata, però per quelli che si chiamano i soggetti deboli, un po' la marginalità, quelli che sono i fragili. Recentemente ha parlato di vulnerabili. La sua collaborazione, ha collaborato a lungo, credo che collabori ancora con la Casa della Carità, con Don Virginio Colmegna, che lo conoscete tutti, ha fatto un'interpretazione dei dati usciti da quel lavoro fatto da ACLI Caritas insieme alla Diocesi di Milano sul Fondo Famiglia Lavoro, cercando di leggere e di capire anche attraverso questa esperienza fatta dalla diocesi che cosa è cambiato. Ha scritto un libro sulla comunità titolato La comunità maledetta, dove ragionava di che cosa era avvenuto in Jugoslavia, il discorso dei volontari, il senso di... insomma. E poi dirige, credo, la rivista più interessante per queste dal punto di vista teorico, che è Communitas, che è la rivista, diciamo, un po' figlia di Vita, no? Credo che poi, e questo credo che sia la cosa oggi ad oggi più significativa. Allora, è proprio per questo che credo il punto di vista che Bonomi, che gli chiediamo questa sera, è proprio di ragionare del senso di queste cose che qui facciamo, che stiamo facendo, dentro però un quadro più ampio di riferimento. Questo è, credo, il taglio e l'esigenza che ci abbiamo. Gli faccio un po' una mini scaletta delle cose a cui potrebbe magari provare a rispondere. Nel titolo che è stato dato all'incontro si parla di società in affanno. È sintetico, ma credo che sia evochi tante cose questa società in affanno, perciò se ci aiuta a individuare alcuni tratti distintivi di questa società in affanno. E il secondo è appunto quello che l'apporto che questo arcipelago di realtà, in senso specifico ma anche in senso più lato, può dare a questa società in affanno oggi, qui in questo paese, in Italia, nel 2011, di fronte alle terribili cose che sono avvenute anche recentemente, che ci sconvolgono, dal punto di vista dell'apporto socio-economico, d'accordo, ma anche dal punto di vista, e credo sia l'aspetto più rilevante, dal punto di vista del senso della società, perché se forse c'è oggi una crisi, è anche questa che si chiama crisi di senso. Nel suo ultimo libro, che non ho alcun interesse personale, però che è questo, Sotto la pelle dello Stato, Rancore, cura e operosità, tratta largamente di queste cose, parla e dice che ci sono, lui le chiama, tre comunità di senso: una la comunità di cura, l'altra la comunità del rancore e l'altra la comunità dell'operosità. Questa è un po' la chiave, credo, interpretativa che lui ci offrirà poi nel suo intervento. Lì nel tema che è stato identificato si fa specifico riferimento anche al discorso del volontariato. Il volontariato è, credo che sia molto molto diffuso, c'è una presenza di volontariato tradizionale, ma c'è anche una presenza di un volontariato che viene sempre da tutte e due le aree, da quella cattolica e da quella laica solidale. E nella introduzione che è stata fatta a questo incontro, riprendendo un pezzo di Aldo, si dice: all'interno di questi mondi l'impegno civico sembra lentamente cambiare pelle, meno volontariato di impronta caritatevole, maggiori spinte professionalizzanti che agiscono in una prospettiva di prevenzione all'emarginazione, con lo sviluppo di azioni per la tutela e l'ampliamento dei diritti di cittadinanza sociale. Ecco, credo che questo sia un altro fuoco da mettere a tema e che si sposa bene con i ragionamenti che Aldo fa sulla comunità di cura. È evidente che c'è una caratteristica del volontariato, che è quella del cosiddetto del fare, che è una cosa che può avere anche margini di ambiguità, se è intesa come al di fuori dal contesto, eccetera, eccetera. Ha invece un grande valore se è intesa come capacità di dare delle risposte di concretezza, come dire, non puramente accademica o teorica. Questi sono un po' i temi che volevo ad Aldo sottoporre, cogliendone ovviamente gli elementi positivi ma anche gli elementi di criticità. Perciò gli lascio la parola. Poi dopo, non so quanto intendi parlare, mezz'ora, 40 minuti, poi ovviamente è a disposizione per le vostre domande e osservazioni. Grazie. Allora, partiamo dalla dolce presentazione di un amico e quindi diamo tutto per scontato quello che ha detto. E cercherò di rispondere ai temi che lui ha posto. Cercherò di rispondere mettendo assieme due ragionamenti. Un ragionamento che rimanda alla dimensione di quella che io chiamo la comunità di cura, per capirci. E un secondo ragionamento invece che mi è venuto in mente visitando questo luogo, che rimanda ai processi dell'altra economia, mettendo assieme due cose. Seguirò in parte la traccia data da Corti e anche il ragionamento che lui ha fatto, che rimanda al mio libro, ma ci aggiungerei alcuni ragionamenti che ho fatto ieri sera a Carpi nell'ambito del Festival della Filosofia, che ragionava su il tema della green economy, tanto per capirci, o dell'altra economia. Allora, partiamo in primo luogo da questa domanda che lui mi ha fatto sulla società in affanno. Beh, io direi che il termine, caro Corti, è troppo dolce. Dico alcuni numeri. Secondo me bisogna capire che siamo di fronte a un grande cambiamento epocale in cui finisce un'epoca. E cito solo tre numeri. È uscito il rapporto sulla società americana, da cui risulta che negli Stati Uniti d'America attualmente ci sono 50 milioni di poveri, il 15% della popolazione. Questi 50 milioni di poveri sono divisi, ovviamente, col solito metodo nostro delle classi sociali a cui siamo abituati, ma sono anche certificati per etnia. Il 30% sono afroamericani, il 29% sono ispanici e il 9% sono bianchi. Dico solo una cosa molto semplice: una società che con il suo modello di sviluppo produce 50 milioni di poveri divisi e segmentati per classe e per etnia è una società che ha fallito la sua capacità di inclusione. E sono partito ovviamente dal modello americano perché è quello che inficia e dà il senso a quello che è la retorica del mondo occidentale. Se arriviamo nel nostro paese, cito solo alcuni numeri. In Italia noi abbiamo attualmente 2 milioni di giovani depressi e muti che vivono a carico delle famiglie della pensione della nonna, quelli che noi sociologi chiamiamo i NET, not employment, not education, cioè che non vanno né a scuola né cercano più lavoro. Sono, per capirci, quelli che hanno portato il conflitto non fuori ma dentro il nucleo della famiglia. Il conflitto è tutto imploso all'interno. Detto volgarmente, non in sociologese, sono quelli che picchiano la mamma per avere i soldi per la movida e per il telefonino, insomma, per capirci. Poi abbiamo 2 milioni di giovani che hanno negli ultimi 10 anni votato con i piedi, nel senso che se ne sono andati da questo paese cercando lavoro altrove. E poi abbiamo dai 2 ai 3 milioni di mai, cioè quelli che non avranno mai la pensione, non avranno mai una dimensione di lavoro stabile su cui costruire le cose, e quelli che questa nebulosa qua. Seconda osservazione, un altro dato, che quando una società non riesce più a produrre inclusione rispetto a quelli che vengono dopo, è una società che ha fallito la sua capacità di produrre e di fare società. Quindi siamo ben oltre che la società in affanno. Terza fotografia, e poi finisco con le analisi di scenario su cui ragionare, la terza fotografia è che se noi guardiamo complessivamente quello che sta avvenendo in una dimensione intorno al nostro paese, da un punto di vista geoeconomico e sociale e geopolitico, noi abbiamo sulle sponde del Mediterraneo ovviamente una generazione che chiede libertà e lavoro. È chiaro a tutti che il problema esploso tra la Tunisia e l'Egitto è un problema drammatico che parte da una dimensione di lavoro e libertà chiesto dai giovani. Poi se ci spostiamo esattamente a nord, nel mese di agosto abbiamo avuto quello che io chiamo il luddismo dei ghetti, nel senso che migliaia di giovani sono usciti dai ghetti metropolitani londinesi e ovviamente per andare a procacciarsi quello a cui sono stati abituati, le Nike e i telefonetti. Fa sorridere ovviamente citare un discorso di questo genere alla fiera o al luogo in cui si ragiona dell'altra economia, del biologico, eccetera. Però il loro problema era non andare a prendere il biologico, il loro problema era prendere le Nike e prendere, scusate se sono un po' brusco su questo, ma la realtà è questa, andare a prendere le Nike, andare a prendere il telefonetto. Poi abbiamo, se guardate nei paesi dell'est, ho letto ultimamente un libro intervista a quelli nati dopo l'89, cioè dopo la chiusura, dopo la caduta del muro di Berlino, mi ha colpito una frase di una ragazza russa, di una ragazza moscovita, che dice una frase lapidaria, dice: quello che ci avevano detto del comunismo era tutto falso, purtroppo quello che ci hanno raccontato del capitalismo era tutto vero, cioè ci capiamo, e quindi in una dimensione di questo tipo. Poi abbiamo gli indignados spagnoli, ci siamo capiti, e poi l'Italia è in mezzo a questo. Aggiungeteci se volete, aggiungeteci anche le banlieue parigine, avete il quadro di una prateria che non sta molto bene e di una società che è in affanno rispetto a questo. Dire che è in affanno è molto poco. Credo che noi dobbiamo ragionare sul fatto che siamo di fronte alla crisi globale di un modello, di questo dobbiamo ragionare. La domanda che mi pongo, rispondendo a Corti, se a fronte di questa crisi epocale, di un determinato modello di sviluppo, di un determinato modello di società, ci salverà, lo dico con una banalità, ci salverà il volontariato e ci salverà, virgolette, l'altra economia. Questo è il punto su cui ragionare, mi pare importante, e questo che tu mi inviti a fare rispetto a un ragionamento di questo tipo. Allora, parto prima da un ragionamento che rimanda all'altra economia e poi dopo arrivo al volontariato, all'associazionismo, al mutualismo. Allora, ieri sera, quando ho fatto la mia lezione a Carpi, ho fatto riferimento a tre filosofi che hanno discusso di questo tema del rapporto economia-natura, rispetto della natura, biologico, ambiente, eccetera, eccetera, che è un pezzo qui convenuto. Allora, Bodei, ad esempio, nella sua lezione magistrale dice: il problema è capire se la tecnica, la potenza della tecnica, sarà in grado di nuovo innestare un modello di sviluppo dentro il quale il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, l'uomo e la natura è compatibile. Un altro filosofo, Jean-Luc Mercier, ci dice invece una cosa drammatica ma vera. Lui dice: teniamo conto che noi siamo fondamentalmente corpo nudo, cioè l'essere umano è un corpo nudo che appartiene, virgolette, alla natura rispetto a questo, e quindi il discorso del corpo nudo, il discorso del corpo da cui partire, da cui rispettare, eccetera, per ricostruire società diventa fondamentale. Il mio amico Cacciari, con il suo solito cinismo filosofico, dice una cosa che condivido in toto. Lui dice: attenzione, noi dobbiamo tenere presente che il capitalismo è crisi, intendendosi non mettendo l'accento sulla E, cioè il capitalismo è crisi, il capitalismo va avanti per crisi continuate, per rotture continuate. Quindi incomincio a ragionare e dico che noi ci troviamo di fronte non a una crisi passeggera, ma ci troviamo di fronte a una crisi, virgolette, di sistema che ridisegna gli assetti economici, gli assetti sociali, gli assetti politici, gli assetti geoeconomici del mondo, dentro il quale, ritorno sempre alla domanda di Corti a cui cercherò di rispondere, che ruolo può avere in questa crisi, che è una rottura del paradigma precedente, il volontariato, l'associazionismo, l'altra economia? Perché mi pare che questo sia il ragionamento su, oppure è l'uscita, è in questo modo che riusciremo a uscirne rispetto a queste cose qua. Questo è il punto su cui ragionare in termini di discontinuità, discontinuità. E per arrivare alla situazione italiana, io credo che ragionare di discontinuità significa in primo luogo tener conto che noi abbiamo ragionato per tutto il Novecento, secondo tre paradigmi molto semplici, dentro il quale il mondo del volontariato e dell'altra economia era figlio di un dio minore, era un'ancella minore. I tre paradigmi sono molto semplici. Primo paradigma fondamentale: noi abbiamo sempre ragionato per tutto il Novecento che da una parte c'è il capitale, dall'altra parte c'era il lavoro e in mezzo lo Stato. A secondo di come le due polarità, capitale o lavoro, erano egemoni nella società, nella politica, eccetera, eccetera, lo Stato redistribuiva risorse. E ovviamente questo significa un dibattito che riguarda il mondo del volontariato e dell'associazionismo, non da poco, che è il rapporto con il welfare state, con lo Stato assistenziale, con lo Stato provvidenza che ridistribuisce, e il ragionamento se tutta una serie di funzioni le debba svolgere lo Stato o se tutta una serie di funzioni toccano al volontariato con un ruolo sostitutivo. Problema che chiunque ha una cooperativa sociale, un'associazione eccetera, si è posto mille volte di ragionare in questi termini. Allora, io dico, punto primo, teniamo in conto che questo paradigma è finito. Allora, teniamo in conto che questo paradigma, mettersi il gelato in bocca va benissimo. Allora, teniamo in conto che questo paradigma è finito, e lo dico in maniera molto semplice. C'è forse qualcuno di voi che pensa ancora di poter far lobby rispetto alla finanziaria per ottenere risorse? Sarebbe un folle. Uno sa benissimo che le normative, le finanziarie, i decreti, oggi come oggi, dispensano non risorse ma tagli quando va bene. L'ultimo decreto governativo fa testo rispetto a questo, ok? Quindi quel meccanismo per cui la statualità era, virgolette, erogatore di servizi e di accompagnamento è un meccanismo monco rispetto a questo. Quindi il primo problema è capire che d'ora in avanti il volontariato, l'associazionismo, l'impresa sociale, abituata a prendere le briciole del welfare rispetto a tutta una serie di meccanismi, oggi come oggi si muoverà in una situazione di scarsità. Questo è il primo punto su cui ragionare. Che è un bene o un male, non lo so, però bisogna prendere atto che la dimensione da cui si parte è una dimensione di scarsità. Allora, primo paradigma. Secondo paradigma a cui noi eravamo abituati, è che dentro questo meccanismo quello che contava era un ragionamento che rimandava alle classi sociali, e le classi sociali erano certificate dal lavoro e dal suo ruolo. Io dico che oggi questo meccanismo non è più sufficiente, lo vedremo dopo con alcuni esempi. Se uno vuol capire come è cambiata la società, non basta più fare la domanda semplice di un tempo: dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei. A parte il fatto che se tu fai questa domanda a un giovane devi fargliela ogni 6 mesi o ogni 3 mesi per capire chi è, ti puoi immaginare. Una volta era semplice: dimmi che lavoro fai, dice sono operaio, sono impiegato, sono dirigente, perfetto, classe media, piccolo borghese, proletariato, ok, tutto tornava. Oggi come oggi, a parte il fatto che devi chiedere a uno dimmi qual è la tua Weltanschauung, la tua concezione del mondo e forse riesco a capire i tuoi comportamenti collettivi, ma il vero problema è che perlomeno due categorie ce le devi aggiungere, e le due categorie che ce le devi aggiungere sono categorie che rimandano al genere, categorie che rimandano all'etnia, da dove vieni, qual è il tuo paese, quali sono le tue culture. Devi incominciare a capire che la dimensione dell'identità di classe e quindi quella certezza per cui, ritorniamo sempre al volontariato e all'associazionismo. Si sapeva da che parte stavi, da che parte sto io? Sto dalla parte degli ultimi. Ci stiamo cercando di capire cosa vuol dire gli ultimi, chi stabilisce gli ultimi, quali sono i parametri rispetto a questo, ok? Lo dirò poi nella ricerca sul fondo famiglia e lavoro, lo posso dire anche adesso, del Cardinale, fatta su tutta la Lombardia. Abbiamo capito che ovviamente chi sono gli ultimi, cioè chi sono quelli che andavano a chiedere i 1000 euro, i 2000 euro perché non avevano da pagare i libri per la scuola, il mutuo che non riuscivano a saldare, eccetera eccetera, cioè quelli in difficoltà economica rispetto a questa cosa qua, beh, vi meraviglierà, abbiamo cominciato a capire che c'erano molti, molti impiegati, dirigenti in crisi, ceto medio in crisi, quelli che avevano la vergogna della miseria, quelli che entravano, per capirci, dalla parte posteriore della parrocchia per andare a chiedere i soldi, perché invece i migranti o altro erano abituati ad accedere ai servizi rispetto a questa cosa qua. Abbiamo colto che dentro la Lombardia opulenta c'è un 15% di soggetti che mai avresti detto, la famosa crisi dei ceti medi, eccetera, che va in questa direzione. Abbiamo scoperto che molto spesso è la dimensione di genere. Quanti sono le donne con un nucleo familiare per separazione, eccetera, eccetera, che vanno avanti rispetto a questo? E quello è un soggetto totalmente in crisi rispetto a questo, perché non ce la fa. E poi abbiamo scoperto, ovviamente, che c'è un nuovo, usiamo questo termine per capirci, del Novecento, un nuovo proletariato in cui il 51% dell'accesso al fondo è fatto da migranti, ma non irregolari, ma regolari, stabilmente qua, che non riescono ad andare avanti. Quindi vedete che la composizione sociale è completamente cambiata rispetto a questo. Quindi paradigma, capitale, lavoro, stato in mezzo, classe che non basta più, e quindi bisogna incominciare, io dico, a ragionare su un altro paradigma che mi pare quello più interessante, che coinvolge sia il volontariato e l'associazionismo che i soggetti dell'altra economia. L'altro paradigma è quello che io dico, che bisogna cominciare a ragionare che ci sono i flussi che impattano nei luoghi e in mezzo riappare la categoria del territorio. Se vi può sembrare una definizione troppo cervellotica, elenchiamo i flussi. Allora, primo dato: la finanza è un flusso. Uno dice, ma che me frega, è un flusso immateriale che non vedo. No, voi sapete benissimo che dal 2008 in avanti la crisi è crisi finanziaria. Voi sapete benissimo che ci sono alcune parole magiche che ovviamente gli esperti, rating, spread, 3A, le 3A, voi sapete, queste, dice, ci sono dei signori che hanno in mano le 3A, che sono come dei fulmini, sorvolano il territorio e dicono, toh, la Grecia, invece di averne tre, ce n'ha una sola. Questo significa che il popolo greco, in un modo o nell'altro, se la spanga male. Ci siamo capiti? Questi sono i flussi che impattano nei luoghi e li mutano. Se a qualcuno può sembrare una cosa troppo lontana, ricordatevi che la finanza rimanda ai mutui del quotidiano, rimanda alle problematiche quotidiane di sviluppo di un territorio, eccetera, il rapporto con le banche, il rapporto con il denaro, eh? E flussi e uomini. Le transnazionali sono un flusso. Per capirci, la Fiat di Marchionne è un flusso finanziario che attraversa i territori e dice, atterro a Pomigliano o a Torino a queste condizioni, ma prima di tutto è un flusso finanziario. Non è più solo un'impresa. Le internet company sono un flusso. Sky è un flusso. Quello che più o meno, con la parabola, tutti quanti cercano di connettersi rispetto a questo. Le migrazioni sono un flusso, che arrivano nei luoghi, li mutano e li cambiano. In mezzo alla categoria del territorio. Quindi il problema non è più ragionare solo ed esclusivamente capitale, lavoro, stato in mezzo, ma il problema vero è capire che ridiventa centrale la dimensione del territorio, e dentro il territorio che ridiventa centrale si scatenano tutti i comportamenti collettivi, gli egoismi, i buoni sentimenti, il volontariato, l'associazionismo. Voi sapete benissimo poi anche quanto sia importante il territorio rispetto all'altra economia, ovviamente. Chilometro zero, il biologico, tutto un discorso di questo genere è un discorso che rimanda al territorio, ecco, con tutto ciò che questo significa. Quindi riappare come centrale il territorio. Quindi capire questo è estremamente importante, e se volete, io credo che nei prossimi anni la dimensione territoriale sarà estremamente importante per capire come, a fronte di questo cambiamento, si metteranno in pista momenti di auto-organizzazione, mutualismo, organizzazione dal basso, momenti come questi, tanto per capirci, no? Che sono momenti collettivi in cui ognuno cerca di portare le sue micro esperienze, perché poi, spero di non offendere nessuno, non sono esperienze potenti, sono tutte esperienze da poco. Non credo che nessuno si offenda se dico che sono esperienze da poco. Sono tutte esperienze da poco che diventano visibili nella misura in cui si mettono assieme, nella misura in cui fanno una rete sociale. Se non fossero una rete sociale, ovviamente il miele, il biologico, il volontariato, la cooperativa, la micro cooperativa che fa l'inserimento di tre malati di disagio psichico, eccetera, sono ovviamente, rispetto alla dimensione della potenza e la dimensione che abbiamo appena descritto della crisi del cambiamento, ben poca cosa. Allora, se questo è il quadro e questo è il mutamento epocale che ci aspetta, io direi, e qui arrivo incomincio a dare la risposta che mi chiedeva Sandro, direi come, a fronte di questa società che è ben più che in affanno, per capirci, ben più che in affanno, è di fronte a un cambio d'epoca. Allora il problema vero è che di fronte a un cambio d'epoca bisogna cominciare a disegnare ciò che verrà. Però prima di disegnare ciò che verrà e il ruolo che voi potete avere in ciò che verrà, io credo che sia assolutamente importante, in primo luogo, che voi capiate una cosa. Lo dico con una provocazione, lo dico rovesciando un ragionamento: voi dovete essere grati al liberismo, perché il liberismo ha spazzato via tutto e ovviamente inevitabilmente ha lasciato l'uomo nudo. Questo lo dico, cioè il liberismo, che ha fatto questo ciclo ventennale, che è durato 20 anni ma che è stato l'inizio, lascia una società che non riesce ovviamente a aggregarsi e a muoversi, gli manca il collante. Questo rimanda alla crisi della politica, crisi delle forme intermedie che abbiamo sempre conosciuto. Tanto per capirci, quando era capitale, lavoro e Stato in mezzo, i sindacati erano il sindacato, la Confindustria era la Confindustria, per capirci, la DC era la DC, il Partito Comunista era il Partito Comunista. Oggi come oggi, questi soggetti intermedi della rappresentanza e i soggetti della politica sono in crisi dentro questo cambiamento. Allora, il problema vero è capire cosa viene dopo. E qui di nuovo la domanda: può essere il dopo il volontariato e l'altra economia? E qui cominciamo a dare delle risposte. Voi dovete essere grati perché ovviamente avete un'autostrada da percorrere. Ovviamente l'autostrada da percorrere assomiglia alla traversata del deserto, però l'autostrada c'è, con tutto ciò che questo significa. Nel senso che, venuto meno una serie di spazi intermedi, una serie di paletti, è il vostro, lo direi in maniera provocatoria, è il vostro momento. Che è foriero di opportunità, ma foriero di responsabilità, e quindi, se posso dirlo, non è che, insomma, se qualcuno pensa che questi due mondi sono due mondi di marginalità operosa in cui ognuno può essere buono dalla mattina alla sera e poi sentirsi gratificato e tornarsene a casa, sbaglia. Non è questo. È un luogo centrale denso di contraddizioni. Cercherò di spiegarmi. Allora, nei comportamenti collettivi io noto che proprio perché c'è un grande disagio, la società è in affanno, non esistono più i luoghi intermedi, i luoghi della comunità, è in crisi la famiglia, è in crisi il comune intendendosi i luoghi, il paese, no? C'è lo spaesamento, sono in crisi le dimensioni intermedie della politica, le dimensioni intermedie delle forme di rappresentanza. Quindi ovviamente in primo luogo ognuno si chiede come ricostruire legame sociale e ricostruire comunità. Allora, punto primo, si può costruire il legame sociale e avere voglia di comunità, per dirla con Bauman, anche partendo dal rancore. A voi sembrerà strano, ma in questo paese, in questo momento, se uno fa un'analisi dei comportamenti collettivi, deduce che non vince l'esercito dei buoni, non state vincendo voi, vince l'esercito dei rancorosi. E cerco di spiegarvi. Il rancore perché prende e perché è diventato un collante sociale con cui dobbiamo far conto? Allora, punto primo, il rancore prende perché la crisi epocale mette paura. E quindi tutti coloro che per il Novecento avevano pensato di aver risolto i loro problemi sono assolutamente impauriti di fronte al cambiamento. Lo dico sempre ridendo e scherzando. I più impauriti non siete voi, i più impauriti sono quelli che basta percorrere la pedemontana lombarda, hanno il loro capannone, la villetta a fianco al capannone, il giardinetto davanti a casa, i nanetti e la BMW in garage. Sono quelli lì, è quel prototipo lì che è assolutamente preoccupato, perché dice, ma giustamente dal suo punto di vista, cercate di capire, dal suo punto di vista dice, ma come, ho lavorato come una bestia tutta la vita, ho messo al lavoro tutta la famiglia, non mi sono concesso mai nulla, ho cercato di arrivare a raggiungere il benessere e adesso basta un pirla delle 3A, ci siamo capiti, no? Basta, che ovviamente cambia tutto, è chiaro? No, dice, Dio mi ha dato questo benessere, guai a chi lo tocca, ovviamente. Secondo dato, si ha paura di chi? Dell'altro. Avendo paura dell'altro, ovviamente il rancore si coagula contro lo straniero. Guardate che le comunità si costruiscono come comunità aperte, comunità per, ma anche come comunità chiuse e comunità contro. Faccio solo un esempio. Quando ad opera con Don Virginio ci siamo occupati di quelle 12 famiglie rom, uno andava ad opera in quei giorni e ovviamente dice, ma cosa sta succedendo? C'era metà paese che circondava con i fuochi 12 famiglie rom. Dice, ma cosa sta succedendo qua? Allora uno andava dal prete, tanto per capirci, per i due capisaldi del Novecento, andava dai cattolici, ok? E gli diceva, ma cosa sta succedendo? E il prete mi rispondeva, guardi, era Natale, io ho fatto l'omelia in chiesa, ho detto vogliamoci bene, siamo accoglienti, eccetera, eccetera. Ma guardi che il comitato, non so come si chiama, il comitato della parrocchia è tutto l'intorno. Perché mi hanno detto, lei dirà pure queste parole buone, ma noi siamo lì a difendere il valore delle nostre case. Perché se arrivano i rom, il prezzo delle nostre case è più. Allora, seconda operazione, vai dal sindacato e dici, ma dove sono le vostre truppe cammellate dei pensionati? Siamo capiti? E le truppe cammellate dei pensionati erano intorno al fuoco a mangiare le braccioline credendo di essere la festa dell'unità. Quindi uno dice, vado dai cattolici, vado dai comunisti. E invece questi dice, e dicevano, perché poi tu vai lì e dici, ma perché? Dice, ma che bello, siamo usciti finalmente di casa, abbiamo ripreso la nostra comunità. E tu gli dici, ma la comunità la costruisci contro 12 zingari, uso questo termine. Dice, sì che bello, perché difendiamo il nostro luogo. È chiaro? Quindi vedete che le comunità si formano anche in chiusura e contro l'altro da sé. Aggiungo. Molti di quei net a cui facevo riferimento prima, di quei giovani, sono giovani rancorosi che si chiudono e non si aprono certamente rispetto al cambiamento, eccetera, si chiudono rispetto a questo. Quindi tu hai una dimensione del rancore che è presente nella società. Devo dire, se la devo buttare in politica, che le comunità rancorose, il problema del rancore diffuso alimenta il populismo, l'antipolitica, i razzismi, eccetera, tutte quelle cose che dentro qua non sono political correct, ci siamo capiti? Però attenzione, vi chiedo di fare un ragionamento, visto che siete l'isola che non c'è, non a caso ho detto questo, di fare un ragionamento, siete l'isola che c'è o siete l'isola che non c'è? Cioè, il tessuto sociale che vi circonda, il tessuto sociale quanto è, virgolette, caratterizzato dai comportamenti collettivi? E tanto per essere chiari, per non assolvere nessuno, guardate che non è che uno è comunità di cure, buono tutta la vita, il rancore a volte prende anche noi, se noi ci ragioniamo non è che non ci prende rispetto a questo, nei comportamenti collettivi. Comunque, lasciamo perdere perché andremo dentro ragionamenti psicanalitici eccessivi. Io dico che l'isola che c'è deve tener conto che intorno il mare aperto, il mare che circonda l'isola, fondamentalmente è un mare caratterizzato da un insieme di comunità rancorose. Primo dato, la crisi aumenterà il rancore, la crisi aumenterà l'invidia sociale. Non è vero che peggio va, meglio è, perché i soggetti sociali a fronte di questo si impauriscono sempre di più. E quindi i tempi che verranno, sono tempi che saranno caratterizzati da invidia sociale e rancore. Se uno vuole essere raffinato, tenga conto che l'invidia sociale ha sostituito quello che una volta era la lotta di classe, che aveva dei suoi codici. La lotta di classe diceva: sono un proletario, lotto per avere i miei diritti, per diventare, emanciparmi ad andare avanti. Ma il codice era un codice collettivo. Quando tutto diventa invidia sociale e rancore, il problema è che il nemico è il tuo vicino, con tutto ciò che questo significa. Per capirci, per entrare dentro, la società del rancore è quello che poi produce anche alcune patologie del moderno, a cui siamo abituati, che poi noi le spettacolarizziamo, non c'è dubbio? Poi quando vanno a finire in televisione diventano, virgolette, sottocultura di massa, ok? Non mi ricordo più come si chiama quello di Bisceglie, giù di lo zio Antonio, cioè tutti, avete capito? Cioè quando vengono spettacolarizzate queste cose. Però questa è una dimensione da tenere in conto. Secondo passaggio, accelero perché vedo che inizia a piovere. Secondo passaggio, per fortuna ci siete voi. Cioè c'è il mare in tempesta del rancore, per fortuna ci siete voi, cioè per fortuna c'è una forte comunità di cura in questo paese, ma non solo in questo paese. Uno viene qua, passa nell'isola e ha una botta di speranza. Per fortuna ci siete voi, c'è la comunità di cura molto forte in questo paese. Anzi, un interrogativo sociologico che mi sono sempre fatto, lo dico fuori dai denti, dico, ma com'è possibile che ci sono terre operose dove ci sono botte di intolleranza, di razzismo, voti alla Lega a non finire, eccetera, eccetera, e poi una forte comunità di cura, siamo capiti? Come stanno assieme queste cose, dice il sociologo, come stanno assieme? Perché insomma quando uno va a fare l'intervista ai leghisti dice un tantinello rancorosi e razzisti lo sono, ci vado piano ma senza criminalizzare nessuno, però insomma quando voglio le ronde, non voglio questi, ognuno padrone a casa sua, blindare tutto qua, chiudere la comunità eccetera eccetera, ok. Ci siete voi e entriamo dentro questo voi. La comunità di cura è fatta in primo luogo, e qui bisogna cominciare a ragionare. La comunità di cura non è fatta solo dall'esercito dei buoni, cioè da voi. La comunità di cura è in primo luogo fatta da tutte quelle professioni del Novecento che rimandavano al welfare. Cioè, tanto per essere chiari, un insegnante che fa bene il suo lavoro è un pezzo fondamentale della comunità di cura. Io difendo gli insegnanti rispetto al perfido Brunetta, ma non perché sono convinto che sono tutti stacanovisti. So benissimo che c'è una generazione che si è infilata lì dentro che non è all'altezza, ma li difendo come funzione strategica, perché l'insegnante è un pezzo della comunità di cura. Difendo i medici che fanno bene il loro lavoro, gli psicologi, gli psichiatri, gli assistenti sociali, cioè tutte quelle figure che hanno nel loro DNA professionale il tema dell'inclusione e dell'attenzione all'altro da sé. Quindi attenzione a pensare che siete gli unici. Le professioni del Novecento, dentro il quale ci sono pezzi di welfare e che rimandano alla comunità di cura, sono professioni da portarci dietro nel nuovo secolo. E quindi stiamo molto attenti, lo dico, non in termini economici, alla privatizzazione selvaggia della scuola, degli ospedali, eccetera, ma in questo discorso non perché difendo il welfare pari pari del Novecento, dico che quelle funzioni sono importanti. Poi c'è secondo pezzo che vi meraviglierà. Io credo e spero che il sindacato si riconverta come un pezzo della comunità di cura. Già lo dovete fare adesso, se mi è permessa la confidenza, nel senso che alla fin fine lo dovete fare per forza, diciamo così, demografica, nel senso che sappiamo tutti che passare al sindacato pensionati è il luogo strategico dentro, mi capisci? Una volta il problema era chi aveva in mano le corporazioni e le categorie. Adesso solo Landini pensa che siccome ha in mano i metalmeccanici ha in mano un esercito che sconfiggerà Marchionne. Non è andata così. Il problema è uscire dalla logica corporativa e incominciare a rivalutare, a riconvertire nel sindacato tutte quelle funzioni che sono i servizi, che sono il mutualismo, perché questo è il pezzo della comunità di cura, dentro il quale ci sta anche la tutela del lavoro e dei lavori, non c'è dubbio, ma il sindacato è un pezzo fondamentale della comunità di cura. E io gradirei che il dibattito, visto che un po' di sindacalisti qui ci sono, attualmente in atto tra la CISL e la CGIL, che rimanda al vecchio schema corporativo e ai contratti, incominciasse a ragionare intorno a un concetto mai digerito dalla CGIL, che è quello di comunità, e sempre praticato a destra dalla CISL, che è quello della comunità. Ci siamo capiti? Ecco, quindi sarebbe opportuno che si aprisse un dibattito di questo genere. La UIL è un'entità dello spirito e quindi non la prendo in considerazione, per capirci. Ecco. Sì, dello spirito, ecco, nel senso, ecco, chiaro? Quindi anche qui torniamo alle due culture, no? La cultura cattolica e la cultura comunista del Novecento, che si devono rimettere in gioco. Quindi le professioni del Novecento che producono inclusione, il sindacato è un pezzo della comunità di cura, l'altra economia è un pezzo della comunità di cura. Se avete fatto un'operazione intelligente, che ho capito oggi qua, è quello di mettervi assieme tra questi due mondi, siamo capiti? Tra i mondi in cui, poi vi apro una parentesi che non vi piacerà molto, che apro e chiudo, di quelli della decrescita serena, il biologico eccetera, su cui ho un'unica perplessità, che ho detto ieri sera a Carpi, lo ripeto anche qua: andateci calmi con i fondamentalismi, perché nella storia ce n'è stato uno solo che ci ha provato a fare la decrescita non molto serena, si chiamava Pol Pot. Questo dovete tenerlo in conto, scusate, lo dico dentro le categorie dei grandi cambiamenti. Cioè Pol Pot decise dalla mattina alla sera, dopo la di riconvertire la Cambogia e di riportarla all'agricoltura eccetera. E vero problema, noi abbiamo chiaro questo, io sono totalmente d'accordo su biologico, chilometro zero, altra economia, tutto quanto, dico solo una cosa: tenete in conto che se quella è l'unica alternativa economica dovete deportare migliaia di capitalisti molecolari brianzoli, date giù in Brianza, li mettete tutti assieme fuori dalle fabbrichette e li deportate. Non lo dico, no, sembra ironia, non lo è, perché l'isola che c'è è circondata da ste robe qua, chiaro? E siccome per fortuna non siete Pol Pot e non siete in grado di deportare gli artigiani gli artigiani della pedemontana lombarda, dovete tenerne conto, è chiaro cosa sto dicendo? Cioè dovete tenerne conto e capire che se lentamente incominciano a venire eccetera eccetera, si fa quella funzione maieutica di cambiamento senza deportare nessuno, è chiaro? Però quando io discuto con il mio amico economista Lapo Berti, dice: l'idea è buona, solo che per realizzarla ci vorrebbero i carri armati, e i carri armati non sono buoni, è chiaro il discorso? Ecco, lo dico, e siccome io penso che tutti voi volete, virgolette, essere convincenti con meccanismi di maieutici, accompagnamento, la parola, l'esempio eccetera, è ovvio che è importante, ma quell'economia del margine, quell'economia del margine è un pezzo fondamentale della comunità di cura. Poi ci sono tutte le cooperative sociali, le imprese sociali eccetera, e poi c'è il mondo amplissimo del volontariato. Questa è la comunità di cura, ci hanno capiti? Se pensate di disegnare il futuro che verrà mettendo in contrapposizione la comunità di cura con la comunità del rancore, vi dico che purtroppo allo stato attuale il sociologo vi dice: vince la comunità del rancore. E usando un termine gramsciano, l'egemonia culturale in questo paese è data dalla comunità del rancore, se no non ci sarebbero né Bossi né Berlusconi eccetera eccetera, mi capite? Non avremmo avuto 20 anni di berlusconismo e 20 anni di leghismo se non fosse stato così, chiaro? Siccome io non ritengo che il problema è che siccome votano Berlusconi sono stupidi, dico che è un rapporto che sta dentro questo grande processo collettivo, lo dico facendo degli esempi e ci capiamo perfettamente. Quindi il problema non si risolve solo contrapponendo alla comunità del rancore la comunità di cura, né con Pol Pot, spero che nessuno di voi pensi una cosa di questo genere, però io dico: viva Dio che c'è una forte comunità di cura che ha una grande capacità di rappresentarsi e ha una grande capacità di fare soggetti intermedi. Il nodo del ragionamento, e vado verso la chiusura, non è, perché insomma Corti che ha evocato il passato, se io stessi al mio passato di sociologo che ha studiato a Trento non avrei dubbi, se avessi avuto 21 anni 22 nella situazione attuale, direi che il mio compito è quello di prendere la comunità di cura, mobilitarla e dare in testa la comunità rancorosa, ok? E invece arrivato a 60 anni dico no, forse perché a 60 anni si diventa tutti socialdemocratici, non si è più rivoluzionario, però dico, vi invito a ragionare sulla terza polarità. La terza polarità è capire che ne sarà e cosa verrà avanti della comunità operosa. Io sono per un'alleanza tra la comunità di cura e la comunità operosa, che poi spiegherò, che assieme prendono in mano i rancorosi impauriti e gli dicono: guarda, sta arrivando l'apocalisse, cambia tutto, ci sarà la crisi eccetera, dobbiamo riconvertire il nostro modello di sviluppo eccetera, però non aver paura, non aver paura, forse ce la facciamo a riprendere un processo collettivo basato su forme di welfare, di solidarietà, di sviluppo eccetera, migliori di quelle di adesso, perché quelle di adesso hanno prodotto i numeri che ho detto prima, 50 milioni di poveri, 6 milioni di... ha prodotto quei numeri lì. Quindi siccome dovremmo andare a superare questi problemi dentro questo, cerchiamo di superarli con una visione. Allora, il problema è capire gli operosi. Allora, in primo luogo, c'è una nuova composizione sociale fatta di giovani che lavorano nel terziario, partite IVA, quei precari, quei tutti quelli lì, eccetera, eccetera, che ovviamente sono aperti al mondo. Guardate che non c'è dubbio che uno che gestisce un negozio del commercio eco solidale non può essere razzista, ma anche uno che fa il consulente tra quello che avviene in Cina e quello che avviene in India non può essere razzista, perché se uno va in giro per il mondo a svolgere il suo lavoro dentro la globalizzazione, dentro i grandi cambiamenti, è chiaro che ha una visione del mondo aperta, non chiusa, ok? Partiamo di questi dati elementari, perché ovviamente voi siete aperti al mondo anche da un ciclo economico che vi rimanda a quel mondo, chiaro, no? Le botteghe eccetera sono una rete informale che sta dentro questo, che ha apertura, che sta dentro la globalizzazione con tutte le differenze eccetera, ma sta dentro quello. Allora il problema è capire se noi riusciamo a vedere dentro il discorso dell'altra economia una serie di comportamenti che riguarderanno anche il capitalismo, perché ad esempio il capitalismo si sta interrogando sul concetto del limite. Kyoto, Copenaghen, Rio 2012 l'hanno capito pure loro, poi lasciamo per, hanno capito pure loro che o si danno una regolatina, altrimenti, cioè, tanto per essere espliciti, Obama ha vinto le elezioni facendo sognare l'America sulla green economy, poi gli è andata male con il buco del petrolio eccetera eccetera eccetera, però lui ha cercato di innescare per l'ennesima volta un sogno americano che andasse oltre a quei numeri, 50 milioni di disoccupati, 50 milioni di poveri eccetera, perché ovviamente in quel sogno c'era un discorso di grande riformismo utopico in cui dice bene, noi dovremo tener conto l'ambiente eccetera eccetera eccetera. Poi vai a Copenaghen e cominci a trattare con i cinesi e i cinesi ti dicono no caro mio, fino adesso hai ballato tu, adesso incomincio a ballare io e mi metti i limiti, e no, incominciamo a... Quindi la cosa è un po' complicatina e complessa rispetto a questo, rimanda a quel ridisegno geoeconomico e geopolitico di cui parlavo prima. Però non c'è dubbio che anche dentro il modello di produzione che cambia in questa transizione ci sono tutta una serie di elementi, e da allora il problema vero è ricominciare a tessere reti con forme economiche che sono compatibili con la dimensione del territorio, della coesione sociale eccetera, e ricominciare a fare questo. Quindi io chiudo il ragionamento dicendo: se voi non vi montate la testa pensando di essere l'isola che c'è, chiusa, autoreferenziale, e fate contaminazione sociale, che questo è il vero problema, questi due modelli di cui abbiamo discusso oggi, volontariato, altra economia, hanno molto da dire e molto di assumere in termini di responsabilità collettiva per gli anni che verranno, perché gli unici elementi di capitale sociale vengono e verranno dalla comunità di cura. Grazie. Abbiamo ancora, fino a quando scroscerà giù tutto qua, un po' di tempo, credo che sia un'occasione utile da sfruttare, perciò prego chi vuole intervenire, chiedere. Insomma, se non volete fare il dibattito non c'è mica necessario. Lo so, sintesi del discorso. Io spero che abbiate capito da quello che ho detto che siete dentro i processi reali del cambiamento, e quindi il problema non è più solo un problema del ben operare, ma voi siete un pezzo fondamentale di quei beni collettivi a cui fate riferimento. Cioè, certamente ci sono i beni pubblici, l'acqua, l'ambiente, tutti da tutelare, ma bisogna tutelare pure voi, perché siete un bene collettivo che è assolutamente in grado di fare società intermedia, che attualmente è una società che non c'è più. Boh, basta, possiamo andare, piove ragazzi, non c'è mica problema. Grazie di tutto, mi ha fatto piacere venire a trovare, prossimo anno se volete ci aggiorniamo e discutiamo, io vengo ancora, va bene? Grazie. Ciao.